FM. Con Giorgio degli After Hours, del loro nuovo album, I milanesi ammazzano il sabato. Abbiamo parlato dell'album, delle loro avventure anche all'estero, perché come ben sapete gli After Hours, quando possono, partono, vanno un po' in America, in giro per l'Europa, tutte esperienze che comunque hanno fatto molto bene anche appunto a questo nuovo album. Abbiamo parlato anche del tour che si concluderà il 23 maggio, se non sbaglio, proprio a Milano, al Palace Sharp. Speriamo nell'ultima settimana di riaverli ospiti con noi, magari per un'altra chiacchierata, insomma, per magari farli suonare in studio, sarebbe molto molto carino. Allora, un po' di saluti, un po' di messaggi arrivati a claudia@rockfamily.it, 335-100-7777. Pensavo di essere un po' la regina dei voli, perché parlavamo di questo diversi minuti fa, però devo dire che anche voi andate forte, eh? Devo dire che mi stanno arrivando delle testimonianze incredibili, e quindi c'è chi cade giustamente davanti al cancello dell'ospedale a Brescia, quindi saluto Bonnie col motorino. Ma anche per quanto riguarda voli col motorino potrei raccontarvi delle cose meravigliose, magari non me ne frega niente, però il primo volo in motorino è stato bellissimo, perché cioè, vai a scuola, i tuoi genitori finalmente ti comprano il motorino, dopo che per mesi hai sentito no, il motorino no, è pericoloso, non te lo prendo, però riesci a convincerli dopo tante lacrime, dopo tante faccine tenere. Quindi il primo giorno che vai a scuola col motorino te la tiri in una maniera incredibile e sei particolarmente emozionata. Quindi cosa fai? Almeno io, che sono un po' babbazza, non so, sono entrata in questo cancello, ma tipo ad una velocità mostruosa al massimo, e ovviamente su un pavimento bello liscio, bello, ho fatto un volo mostruoso davanti a tutti, ma proprio cadendo, prendendo una cosciata barra culata incredibile. Però anche con questo, con la solita classe, mi sono alzata e sono entrata in classe, eh? La donna veramente brava nel cadere ma anche brava nel rialzarsi, assolutamente sì. Saluto anche la Sab da Genova, un bacione. Saluto anche Baba, saluto anche Davide. A proposito di cadute molto rock, lui mi racconta di una sua esperienza in bicicletta, mi manda anche le foto, grande, grande. Saluto Nino, saluto anche Sergio da Genova, dice: guarda Cla, l'unico annuncio che vorrei sentire è che Rock FM non chiude, perché vi voglio bene a tutti. Anch'io questo è un annuncio che vorrei assolutamente sentire al più presto. Fungo, un saluto dalla Romagna che conta. Saluto anche Mario del Carnevale di Celle Ligure, dice: fai un saluto a mia moglie Rosy, che sono 9 anni che mi sopporta. Sono d'accordo con te Mario, tua moglie santa subito. Sì sì, guarda Rosy, hai tutto il nostro sostegno e ti siamo vicini. Saluto anche Cane Nero, dice: visti gli Scream a Ferrara circa nell'87-88, parlavamo di Dave Grohl prima, parlavamo di una delle sue prime esperienze in Italia, Leoncavallo di Milano, e proprio con gli Scream, dice: il buon Dave con capello lungo e biondo, molto bevuto direi, mentre rideva come un matto alla console. Ma dai, grande che hai visto gli Scream, poi 87-88. E in effetti anche Dave Grohl, durante l'intervista che ho letto, racconta di questi anni dove il ragazzo beveva parecchio, però si ricorda bene o male tutto. Saluto zio Tibia, dice: ma alla Flog di Firenze non capiti mai con gli altri? E no, non mi hanno invitato, però so che Max e il DJ Ariele saranno giù il 10, quindi questo sabato, dopo il concerto dei Pancreas, quindi vi beccate loro due per il momento. Dice: Claudina, quanto sei alta? Guarda, non dovrei essere, perché l'ultima volta ho preso le misure, allora 1,75-1,78, però di preciso, cioè l'altezza esatta non la so, però tra l'1,75 e 1,78. Adesso invece vi lascio con il nuovissimo singolo dei Motley che ascoltiamo con Saints of Los Angeles. We're gonna make it. stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how. Era bella ai tempi. Courtney Love, molto odiata anche, quello sì, soprattutto dai fan dei Nirvana, perché secondo loro e secondo molti, molto di quel, cioè maggior parte di quello che è successo, colpa della Courtney. Io non voglio difenderla, però insomma ci piace. Courtney Love, che tra l'altro ultimamente è stata vista così spesso e volentieri in questa famosa clinica, sapete quelle super mega cliniche che si trovano in questi posti meravigliosi tipo a Malibu piuttosto che a Los Angeles, piuttosto che in questi posti da $25,000 al giorno. Lei ogni tanto ci passa perché pare che ultimamente abbia avuto qualche piccolo problemino. È entrata il 2 maggio perché accusava forti dolori al petto e praticamente non riusciva a respirare correttamente. Dopo un primo controllo le è stata diagnosticata una laringite, però nonostante ciò una psicologa che l'ha vista passare ha detto: vieni qua un attimo, facciamo due chiacchiere, ti conosco mascherina, non mi fido di te, secondo me c'è qualcosa che non va, secondo me tu hai ripreso a bere e così ogni tanto a fare qualche cosa che non è molto legale. Poi però è uscita dalla clinica all'alba, la prima cosa che ha fatto è andata a comprare le sigarette, quindi secondo noi sta bene. Courtney Love e star bene nella stessa frase è un parolone, però alla fine dai, ci piace. Ore down, questa è un March of the Saints. minuti e 7 secondi di Dream Theater con la loro Pull Me Under. Allora, un po' di saluti. Saluto Lele, dice: sono un grande fan di Mox, ma saprò riabituarmi la tua voce. Non ti preoccupare, sei fantastica. Grazie, caro Lele, un bacione. Dice: ma ti chiamano ancora Claudiotta? Non così tanto come ai tempi. Tra l'altro, finisce bene questa canzone, editata molto bene. E, sì, ai tempi era nato questo Claudiotta, grazie forse ad Ilario. Che un giorno ha detto: beh, ciao Claudiotta! L'ha detto in onda e da lì basta, ormai era diventato il mio nome ufficiale. Ultimamente si è un po' persa questa cosa, fortunatamente. Però da Claudiotta c'è stato Claudiona, che fa anche diverse rime e non mi fa impazzire come nome, perché poi mi dà l'idea di una cosa grande, grossa, larga. Quindi no. Però insomma, il mio nome sì, è stato un po' storpiato nel corso di questi anni, però tutte versioni abbastanza carine. Saluto anche Yuri da Genova. E dice: mi fai un saluto a tutti gli... Attenzione, attenzione, perché è da 2 ore che mi sto esercitando per la pronuncia del speleologi che ascoltano Rock FM. Ce l'ho fatta, bene. Dice: forse non lo sai, ma la speleologia è una delle attività più rock che ci sia. Ore e ore a strisciare tra massi, pietra e fango, o a filare su corde tese in pozzi dove il buio è il più buio che esista. Tutto questo a centinaia di metri sotto la superficie, sotto la folla, lontano dai party alla moda, dai perbenismi e dai SUV. Potresti anche invitarci a far... No, avrei paura, però dai, sì, un bacione a tutti gli speleologi. E dice tra l'altro un saluto alla 2B e 2C della scuola media Don Milani di Genova, che ieri hanno fatto il battesimo del buio. E saluta anche i loro prof che, sì, mi hanno sopportato per 6 ore in grotta. Che bello, però, deve essere una cosa molto carina, molto interessante, ci piacerebbe. Tanto adesso avremo un sacco di tempo libero, quindi ci farai visitare tutte le grotte. Saluto anche Antlon, il nostro fantastico Antlon. Dice: ho inserito nella sezione news del sito rockfamily.it il link per scaricare il file della trasmissione di Radio Popolare di ieri pomeriggio. Basta andare in news e cercare quella dal titolo Radio Popolare Network, cliccare sul titolo per leggere l'intera news e ci siamo. Il link è quello del podcast di Radio Popolare. Grazie Antlon, un bacione, ora Depeche Mode, Never Let Me Down Again.